English Bit di Giulia Crivelli. Smart. Then in Premier Vision Smart Talks, Sustainability is Innovation. Gli Smart Talks della sezione Denim della fiera Premier Vision, la sostenibilità è innovazione. Qualche settimana fa, in occasione della più importante manifestazione francese dedicata al tessile, Premier Vision appunto, sono stati organizzati questi Smart Talks, che letteralmente significa chiacchierate intelligenti, incontri intelligenti. To talk, parlare, è un verbo regolare ma anche un sostantivo. La parola che ci interessa però è smart, intelligente, sveglio, oltre che bello, alla moda, in linea con le tendenze. You look very smart in that suit, ti sta molto bene quell'abito. That was a smart career move, è stata una mossa per fare carriera intelligente. Un smart restaurant è un ristorante alla moda che va per la maggiore in un certo momento, ma l'aggettivo può significare pure veloce. We set off at a smart pace, ci avviammo a un ritmo sostenuto. Da smart, come è facile immaginare, vengono i neologismi smartphone, letteralmente telefono intelligente, o smart card, ma anche smart watch, o smart bomb, che sono veri e propri sostantivi in inglese che infatti tendiamo a non tradurre più. Accanto a money viene usato come aggettivo vero e proprio. It seems the smart money is no longer invested in insurance. Sembra che chi sa come investire bene non lo faccia più nelle compagnie di assicurazione. O ancora, the smart money is on him for best actor award. Chissà come scommettere in modo intelligente e sicuro lo ha fatto su di lui come miglior attore. Anche in questo caso si può usare l'espressione in modo figurato, sempre trovando in italiano un lungo giro di parole per la traduzione. The smart money says that he's likely to withdraw from the leadership campaign. I ben informati dicono che probabilmente si ritirerà, to withdraw, dalla corsa alla leadership. Visto il significato originale della parola, è facile capire perché Swatch e Mercedes decisero di chiamare Smart l'innovativa vettura lanciata nel 1994. Meno intuitivo l'uso per indicare i mini dolcetti al cioccolato inventati dalla Destlé nel 1937, i famosi Smarties. Golosi, sicuramente, ma furbi o intelligenti, forse no.